oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. minuti, non solo il professor Francesco Campione, ma anche in studio una formazione rimaneggiata, o meglio dire ridotta, con William Piana e in attesa di Francesca Clementoni, che sentiremo da remoto. Io saluto il professore. Buongiorno Francesco Campione. Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Non c'è male, non c'è male. Bene, perfetto. Un'altra puntata di Oltre la Crisi. Oggi siamo, per così dire, un po' rimaneggiati, con Francesca che ci farà assistenza, una deck assistance da lontano, che è sicuramente molto preparata, per parlare tutti insieme, perché ricordo che questa trasmissione è a microfoni aperti, quindi 333 1809494, lo ripeto tante volte che lo stavo per dimenticare, a volte succede, 333 1809494 per gli sms e 051 34 64 58 invece per avere un contributo e un dialogo qui dal vivo in diretta. Allora, 13.06 minuti, riallacciandoci alla puntata precedente, stavamo chiacchierando a proposito di questo sentimento contraddittorio, strano, particolare e intenso, ma che infine è di sottofondo bene o male per tutti, che è l'invidia. Ti ricordi, professore? Ci siamo? Certo, mi ricordo. E soprattutto ti invidio perché mi ricordi meglio, ti ricordi meglio di me. Sì, resta, abbiamo parlato a lungo dell'invidia e delle situazioni critiche che può determinare e di come eventualmente si superano. Ci torneremo. Certo. Riassumerei dicendo che c'è un'invidia buona e un'invidia cattiva. Esatto. Perché mi sembrava che fosse il punto poi centrale della nostra discussione. E l'invidia cattiva è l'invidia di chi ha un malessere relativo quando si accorge che l'altro ha qualcosa di buono, e però questo malessere è un malessere che non si traduce in qualcosa che riguarda solo sé, cioè quando uno dice mi dispiace per me che tu sia tanto fortunato, allora l'invidia è buona. Certo. Se uno dice mi dispiace per te che tu sia tanto fortunato, allora certo, l'invidia è cattiva. Decisamente. Francesca sta già scalpitando, quindi noi gli indirizzi per comunicare con noi e un piccolo sunto l'abbiamo fatto, li ripetiamo: al telefono fisso 051 34 64 58, 333 1809494 per gli sms. Partiamo con un po' di musica, gli Yes, Fine Time, e poi dopo torniamo assieme con Francesca. Buon ascolto. Guest con Fine Time accompagnano questo rientro in diretta alle 13:11 minuti e in diretta mettiamo anche Francesca Clementoni. Benvenuta e buongiorno. Buongiorno Willy, buongiorno Francesca. Ciao. Ecco. Ciao, ci sono. Pensavate non ci fossi, invece ci sono. Ma invece io ho sempre avuto fiducia, anzi da quando ho letto l'SMS, allora ci muoviamo, ho detto questa è la Francesca che piace a me, questa è la plus che voglio. Allora, la plus in questo momento si trova negli uffici del TGLFF, il Torino Gay and Lesbian Film Festival, che inaugura questa sera la 29esima edizione, e ringrazio l'ufficio stampa e Jenny in particolare che mi permette di rompergli le scatole per un'ora con le mie chiacchiere, consentendomi di stare al suo telefono. Bene, perfetto, lo ringraziamo anche noi di Radio Città Fujiko. Abbiamo già fatto, cara Francesca, un piccolo sunto della trasmissione, sì, precedente, e quindi adesso abbiamo bisogno della tua linfa vitale per andare avanti con nuove, benissimo, proposte e iniziative. Se sentite voci strane e urli non vi preoccupate, stanno solo preparando la serata inaugurale. Va bene, va bene. Un po' di, come dire, fermento. Perfetto. Allora, Francesco e Willy, sì, eravamo partiti parlando di invidia la settimana scorsa. Esattamente. E avevamo visto questo sentimento dalla parte di chi la prova, l'invidia. E oggi invece volevamo aprire il grande pentolone di chi invece è vittima dell'invidia. Giusto, Francesco? Giustissimo, giustissimo, giustissimo. Credo che sia, come dire, la prospettiva più, tutto sommato, più importante, perché è dalla parte delle vittime, no, sì, che ci mettiamo adesso, o dalla parte di coloro che in qualche modo sono oggetto di questo sentimento non proprio così positivo. E dalla parte delle vittime si vedono cose che non si vedono dalla parte di chi l'invidia la sente per altri. Cioè, in definitiva, che cos'è l'essere invidiati? Mentre l'invidia è il sentimento di malessere per il bene dell'altro, l'essere invidiati è il non potersi godere il bene che si ha perché c'è qualcuno che gufa. Perché c'è qualcuno. Ah. Perché c'è qualcuno. Quindi dici che chi è invidiato lo sente questo. Sì, pagine? Sì, sì, sì. L'essere invidiati si sente. Certo, qualche volta è anche, come dire, un po' persecutorio l'essere invidiati. Cioè, è abbastanza inevitabile che se tu hai tante cose buone e sei circondato da persone che non ce l'hanno, che tu ti aspetti dell'invidia. Questo è inevitabile. Ho capito, però può portare questo stato d'animo, diciamo, di ricevere il sentimento di invidia anche a stati di crisi? Sì, certamente, certamente è una delle, come dire, una delle fonti principali dell'insicurezza sociale, è dovuta proprio a questo, è dovuta proprio al fatto che tu non ti puoi godere in santa pace quello che dovresti goderti perché sei, pensi di essere circondato da persone che ti invidiano. Ovviamente in certi casi questo potrebbe essere anche una giusta punizione, per esempio la punizione dei ricchi è precisamente quella di essere invidiati. In altri casi invece è una cosa un pochino disumana, cioè direi che l'invidia, l'essere invidiati, è l'aspetto negativo della diversità, della disparità che c'è tra le persone. Se uno sta bene ed è fortunato ed è circondato da persone che non stanno bene e non sono fortunate, è probabile che ci sia dell'invidia, e questo determina, è una fonte dell'insicurezza delle persone. Cioè, le persone che dovrebbero essere rilassate perché stanno bene, sono fortunate, gli sta andando tutto bene, non possono esserlo perché temono che ci sia attorno a loro qualcuno che gli sta, che si sta dispiacendo per questo, che, o addirittura, se l'invidia è cattiva, che vorrebbe rovinargli il giochino. Francesco, io volevo un attimo mettere insieme invidiati e invidiosi, partendo da un articolo che è uscito il 30 aprile sulla Stampa, che si intitolava L'invidia, un'arma potente a servizio del successo. Tutto partiva da social network, che sono considerati grandi generatori di invidia della società contemporanea. E però sono stati fatti degli studi, tra l'altro a proposito di Plus, uno studio pubblicato lo scorso agosto dal giornale Plus One, coordinato dall'Università del Michigan, che dice che più le persone utilizzano Facebook, meno sono soddisfatti della propria vita. E dice: non tutta l'invidia viene per nuocere, secondo quanto dicono alcuni psicologi, che la distinguono in due categorie, maligna e benigna. La seconda è quella in base alla quale l'invidia nei confronti di una persona spinge a emularne il successo. Un po' lo dicevamo l'altra volta, ma dice che questa spinta poi molto spesso porta ad arrivare al successo che si è invidiato. Cosa ne pensi? Penso che sia un meccanismo possibile, che sia giusto, c'è questo aspetto. La cosa su cui rifletterei e su cui non sono d'accordo è nel considerare sempre l'emulazione un fatto positivo. Nel senso che l'emulazione implica sempre il voler essere quello che sono, che gli altri sono, e implica in qualche modo quasi sempre un tradire se stessi. Da questo punto di vista, come dire, la nostra società, la nostra cultura è una cultura invece che apprezza molto l'emulazione, perché in qualche modo si pensa che chi ha delle cose buone, che ha successo, così eccetera, possa essere in qualche modo imitato, in qualche modo appunto preso come modello, perché si pensa che una delle vie, che è in qualche modo vero, attraverso cui si migliora, è il cercare di somigliare ai propri modelli. Questo è un meccanismo psicologico vero, però, come dire, io ci metterei, considererei anche gli aspetti, gli effetti collaterali. Gli effetti collaterali, che infatti sono... in questo articolo si va molto nella direzione che dicevi tu, di dare un senso positivo a questa cosa, di accreditarla un po' come teoria. Dice: il risultato su alcune centinaia di manager per un periodo di 10 anni, il risultato è stato che l'invidia non controllata causa danni alla carriera e alle organizzazioni, invece quella riflessa, chiamata così, può guidare il lavoratore nella giusta direzione, consentendo il concentrare tempo e sforzi sulle aree di interesse. Quindi è un articolo che va molto a promuovere questo tipo di sì, certamente, però mi sembra un pochino, cioè, come dire, che, certo, che salti un pochino della complessità del problema, perché tu nei confronti dei tuoi modelli sei sempre un pochino ambivalente, cioè tu quando vuoi imitare qualcuno per diventare come lui o come lei, ci puoi riuscire o non riuscire. Potrebbe essere per esempio che tu voglia imitare qualcuno e non ci potrai mai riuscire. Per esempio, se io volessi diventare ricco come certi ricconi, non ci potrò mai riuscire. E in questo caso la mia tendenza all'emulazione è una tendenza negativa, perché inevitabilmente determinerà una frustrazione per me. Non solo, ma dietro questa frustrazione c'è spesso, cioè quando tu vuoi imitare qualcuno che è inarrivabile, tu spessissimo la tua invidia si trasforma in un'invidia cattiva, cioè distruttiva, nel senso che ti dispiace sempre di più che quell'altro ci riesca e che tu no, non ce la faccia. E quindi lo spirito è quello di andare verso la distruzione di quel bene in esatto, modo da esatto. Quindi dal punto di vista, quindi io credo che questo tipo di studi trascurino il fatto che ci possa essere un'altra modalità attraverso cui le persone migliorano, ed è l'insegnamento, non è l'emulazione, è l'esempio, non è l'imitazione dell'altro. Cioè un modo più, come dire, di livello umano superiore da un certo punto di vista, mentre invece questo modello è un modello, come dire, un pochino, cioè, diciamo così, elementare, che ha a che fare con uomini che sono un pochino ridotti, un po' a bambini che vanno ad imitazione, cioè quindi non hanno una grande autonomia e una grande personalità, e un pochino a meccanismi, per cui certi meccanismi possono funzionare a prescindere, per esempio possono funzionare anche al di là della volontà delle persone, e in questo senso, e questo è un altro effetto collaterale negativo, cioè ci può essere per esempio un effetto imitativo di un modello negativo che è una costrizione della pubblicità, per esempio. Certi modelli sono negativi, vengono presentati come positivi, tutti li vogliono emulare e il risultato è una società di merda. Che collegamento c'è tra l'invidia e la superbia? L'invidia e la superbia? Ma io direi che non c'è nessun collegamento tra l'invidia e la superbia. Dici, non c'è un po' di superbia nell'essere frustrati per il bene altrui, secondo te? No, c'è rabbia più che altro. Più che superbia io direi che c'è rabbia. Direi che c'è senso di ingiustizia. No, intendevo nella partenza, cioè la mia superbia mi costringe a pensare che tu non puoi avere più bene di me, non so come dire. Ma questo secondo me non lo so se questo è superbia. La superbia è un po' una pretesa di superiorità rispetto all'altro, cioè direi che per esempio se uno si sente superiore difficilmente invidia qualcuno. Ho capito. Mi sembra evidente questo, no? Sì, cioè, se riflettiamo, se ti senti superiore, se tu sei superbo e ti senti superiore, difficilmente invidi gli altri. Piuttosto c'entra con l'essere invidiati. I superbi vengono invidiati. Per esempio, tantissime volte si sente dire: vorrei essere come quello lì che si sa vendere, che pensa di essere chissà chi, che suppone di sé chissà che cosa e così via. Che è sicuro di se stesso. Ecco, questi sono molto invidiati. Quindi, sì, dalla parte c'entra se consideriamo la cosa dal punto di vista di chi viene invidiato. Ho capito. In questo senso c'entra. Cioè nel senso che può essere il superbo è oggetto di invidia. Ah, ok, come oggetto, non come soggetto. Ma torniamo all'invidiato. Come se la passa, oltre male, che male, quello che dicevamo male, prima? Male, se la passa male. Una delle più grandi, delle più intense occupazioni della gente consiste nel nascondere tutto ciò che potrebbe essere invidiato agli altri. Questo e quindi è non goderne, una... tra l'altro, scusa. Come? E quindi a non goderne neppure. E quindi a poterne godere solo nel privato. Per esempio, uno degli aspetti della segretezza del privato, le stesse case che con le tende spesse, con i vetri oscurati, con le persiane, servono a far sì che le persone, una delle cose a cui servono è a far sì che gli altri non mettano l'occhio dentro in modo da non vedere quello che è. Cioè, è una, tanto più, ecco, per esempio mio padre quando ero piccolo mi diceva sempre, quando arrivavano i figli dei contadini che erano più poveri di noi per vendere un uovo, sì, e noi stavamo facendo merenda con un pezzo di pane col burro e zucchero, una cosa così, cioè non eravamo molto più ricchi, non eravamo molto più ricchi neanche noi, mio padre mi diceva: nasconditi perché quella bambina potrebbe non avere la possibilità di mangiare, di fare merenda come te. Nasconditi. E io mi nascondo, non capivo. Sì, c'era una delicatezza nei confronti di quella bambina e c'era anche una difesa del figlio. Un modo di preservarlo. Che sarebbe stato invidiato. Cioè basta pensare, ecco, per esempio quando si va nei paesi del terzo mondo, io questa esperienza l'ho fatta a Cuba in anni non sospetti, no? Tu passavi, camminavi per Cuba e tutti ti invidiavano le scarpe, ti invidiavano la maglietta di merda che avevi addosso, ti invidiavano l'orologio, ti invidiavano, e per quanto fossi vestito come uno straccione, ti invidiavano tutto. E allora, come dire, una delle attività fondamentali del turista in giro per il mondo è quello di non far vedere il suo benessere, per esempio, rispetto a quelli in mezzo ai quali gira. Ma comunque è una delle attività sociali più diffuse, quella di nascondere all'occhio invidioso degli altri le cose buone che uno ha. Può entrare in che è una contra... Scusa Francesca, volevo solamente dire una cosa veloce, poi dopo ti lascio libero il campo. Tutto ciò può avere anche un aspetto legato, da parte di chi è invidiato, con la gelosia. Cioè io sono geloso di questa cosa e quindi non faccio vedere che ne sto godendo. Faccio un esempio molto più immediato, sì, della gelosia, cioè di una bella moglie o di un bell'uomo. Io lo tengo nascosto, me lo tengo per me, così nessuno può vederlo, così nessuno può, diciamo così, ambire. Sì, desiderarlo. Sì, ma lì è un po' diverso. Lì è un po' diverso, appunto, desiderarlo, non invidiarlo. Ah. Lì è un pochino diverso. Lì c'entra un altro aspetto fondamentale, e cioè il cosiddetto, un autore ha chiamato questo desiderio il desiderio mimetico, no? Cioè uno desidera quello che hanno gli altri, no? Quello che, perché l'erba del vicino è sempre più verde, perché la moglie di un altro può essere più bella, o il marito più bello, più alto, più ricco. È più ricco, così eccetera. Ma qui, cioè, ma non necessariamente però in quella desiderio dell'altro ci deve essere del malessere. Certo. Qui secondo me è più la gelosia, più a che fare col sentimento del possesso. Ho capito. Scusa Francesca, ti ho interrotto, vai. No, io volevo solo fare un appello ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, perché non ci crede nessuno, dopo le parole di Francesco, che nessuno di loro sia o invidiato o oggetto di invidia o invidiatore, diciamo così, a scriverci al 333 180 94 94. Indubbiamente, lanciamo oppure un brano musicale, oppure scusa al 051 34 64 58 per partecipare in diretta. Ridosso della pubblicità lasciamo Gregory Porter con No Love Dying e poi dopo ci risentiamo assieme a Francesca, che è con noi seppur da lontano ma pur sempre presente, con William Piana e Francesco Campione. Buon ascolto e a fra poco. There will be no love that's dying here. The bird that flew in through my window simply lost his way. He broke his wing, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. The mirror that fell from the wall was raggedy, that's all. It rests up on a rusty nail before it made us fall. Well, the bones of love are everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. For flowers in my Asian vase is not a sign we're dead. I paid for three, a sweet old lady gave me four instead. There's some doubt that's out about this love, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. Simply lost his way. He broke his wings, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There there will be no love that's dying here for me. No, there will be no love that's dying for me. There will be no love that's dying for you and me. Oh, there will be no love dying here. No, not for me. There will be no love that's dying here. No, there will be no love that's dying here. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. There will be no love dying for me. Il Council forse riescono a strappare un raggio di sole con questo easy listening estremamente luminoso, My Every Changing Moods, alle 13.37 in questo momento, oltre alla crisi, insieme a Francesco Campione. Da remoto invece abbiamo Francesca Clementoni e ci scrive in questo momento proprio Manu. Francesca, lo leggiamo subito in partenza l'SMS? Sì. Allora, Manu ci scrive: qualche anno fa mi sono separata. Non avete idea delle domande e delle richieste di dettagli che mi venivano rivolte da persone che sembravano morbosamente interessate alla mia situazione. Buffo! Erano le stesse che ammiravano la mia precedente felicità, senza mai chiedermi come stessi, cioè male, tanto, Manu. Ho finito di leggere. Certo, ma mi sembra un esempio perfetto di quello che è la trasformazione della invidia in sadismo. Cioè, una delle, l'abbiamo detto la volta scorsa, ma lo ripetiamo, una delle vie che l'invidia può prendere è il sadismo. Cioè, nel momento in cui, dato che tu hai sofferto per il bene di un altro, dato che tutti soffrivano perché Manu aveva un bel matrimonio, quando il matrimonio si è sfasciato, tutti hanno voluto sapere tutti i particolari in modo da godere il più possibile. Mamma mia, che immagine tremenda dell'umanità. Terribile. Sdrammatizzare è la parola giusta, perché insomma essere al centro di questa situazione, dici, persone che ho sempre considerato amici, che improvvisamente mi ritrovo abbiano questi sentimenti che ha appena descritto il professore, non proprio positivi, è un po' un disagio. No, possiamo dire una cosa, che io ero in anticipo sui tempi e questo è scemo era rivolto alle persone che poi avrebbe descritto il, certo, il nostro campione. No, ma io però no, no, no, no, non sarei, no, così drammatico come siete voi. No. Cioè, nel senso che questo, come dire, il fatto di godere delle disgrazie altrui è una compensazione della sofferenza per le gioie altrui. Tutto si tiene, ragazzi. Cioè, non è che adesso io non è che voglio essere cinico, però certamente se uno ha sofferto molto per il fatto che c'è qualcuno che è estremamente fortunato e che continuamente ti sbatte in faccia la sua fortuna e tu ne soffri continuamente. Quando quello è un po' sfortunato, te la godi un po'. Ho capito, mi permetto di dissentire su questo atteggiamento, tutto qui. Come? Mi permetto di dissentire su questo atteggiamento, sia nel bene che nel male, diciamo così. Sì, visto che è esattamente lo specchio, certo che è lo specchio, sono d'accordo. Certo, non è buono, però, come dire, è una specie di giustizia emotiva da un certo punto di vista, no? Cioè tu hai sofferto tanto e poi dopo te la godi un po'. Il problema, sapete quand'è? Quando... Ho capito, ma se io soffro non è mica per colpa tua, non so come dire, quindi no, se tu sei contento sono contenta per aspetta, te, poi ma io però, mi smazzerò le mie sofferenze. No, però il problema è che tu non è che godi o soffri nella tua spazio privato. Il tuo godere o soffrire hanno effetti anche sugli altri. Ecco, per esempio, dal punto di vista educativo, questo effetto qui bisognerebbe, come dire, spiegarlo bene ai bambini, in modo da spiegargli che non è così innocente godersi la vita in mezzo a quelli che soffrono. Bisognerebbe spiegarglielo e in modo tale che non si meraviglino poi che quando loro soffrono gli altri godono un po', bisognerebbe spiegarglielo. No, naturalmente sono tutte cose da superare. Un conto è sbandierarlo, cioè eccessivamente, in maniera da provocare gli altri. Cioè tu vedi una persona sofferente e gli sbatti in faccia in maniera plateale il tuo benessere. Allora questo è un conto e sono d'accordo, questo io glielo insegnerei. Sinceramente di godere del proprio bene non mi sembra una cosa così sbagliata. Succede una cosa bella, sono contenta. Assolutamente no, non è sbagliato, però il problema è che certe volte, anche se non lo sbandieri, qualcuno che soffre c'è lo stesso. Hai capito, cioè noi non lo sbandieriamo, per esempio, noi che colpa abbiamo se siamo nati in Italia e non in Ruanda? Però quelli del Ruanda guardano la televisione e ci vedono che esiste un altro mondo. Noi non abbiamo nessuna colpa, però resta il fatto che qualcuno soffre per il fatto che noi godiamo. E noi abbiamo una certa responsabilità per questo. Quindi non è che io dico che non bisogna godersi le proprie cose, però bisogna sapersele godere in modo tale da essere delicati anche con chi non se le può godere le stesse cose. Ecco, delicati, bisogna essere delicati. Mi piace. Cioè io da mio padre, quando mio padre mi diceva non ti far vedere con la tua fetta di pane da quella bambina, io ho imparato una lezione fondamentale. Ti stavo insegnando a non ostentare. Ecco. Esatto. E però certe volte tu tu prendi uno che è appena tornato dalle vacanze e si gode una passeggiata per la strada in mezzo a tanti vecchietti che non possono manco camminare. Quello non si rende conto, ma semina attorno a sé un po' di invidia. Hai capito che deve fare chiudersi in casa? No, però per esempio se si portasse dietro qualcosa per fare qualche carezza a quei vecchietti non sarebbe male. Ecco, ok. Cioè, hai capito com'è il problema? Uno, se tu vedi due ragazzi che si baciano, sono felici, giovani, su una panchina ai giardini e passano tanti vecchi che li guardano sospirando, così eccetera. Se quei ragazzi lì tenessero conto di questo, direbbero, dici però anche voi ve la siete goduta, sì. Mica solo noi. Certo. Senti. Scusa Francesca, a tale proposito sai che è arrivato un altro SMS. Vai. Che leggiamo. Leggi, interessante, leggi. Una conclusione, domanda affermazione che merita un approfondimento. Scrive Max: l'invidiato, visto la parzialità di noi tutti, può invidiare a sua volta? Certo. Certamente, l'invidiato, anzi, ci può essere una catena di Sant'Antonio tra invidiati e invidiosi. Negativa, una bella catena di Sant'Antonio, certo, certamente. Cioè se si considera che chi è invidiato non è che ha tutto il bene del mondo, ci saranno altri che hanno dei beni che lui non ha, certo. Per cui quelli che non hanno quello che lui ha invidiano lui e lui invidia quelli che hanno quello che lui non ha. Qualcos'altro. Certamente è una catena. Esatto. E mi collego io a questo SMS allora, perché a questo punto io voglio sapere da te, Francesco, chi è quello che va più in crisi, che soffre di più dello status, di questo insomma sentimento, l'invidiato o l'invidiante? Ma io tendo a pensare che siccome ci sono molti più invidiati che invidiosi, tendo a pensare che quelli che soffrono di più sono gli invidiati, però anche gli invidiosi non scherzano. Ma di più nel senso che sono più numerosi o nel senso che No, adesso di dicevo la crisi. Quale crisi è più grave? Quando vanno in crisi, perché non è detto che vadano in crisi. Certo. Vanno in crisi quando per l'invidiato quando va in crisi, ecco. Quando i mezzi che ha per non farsi invidiare sono inefficaci. Per esempio, cerca di nascondersi, ma non ci riesce. No. Cerca di nascondere quello che il bene che gli altri gli invidiano, ma non ci riesce e gli altri glielo invidiano. Allora lui può andare in crisi. Che tipo di crisi è? È una crisi di vergogna, in realtà si vergogna di essere così fortunato, così di avere di più degli altri, cioè è la vergogna che si ha di fronte a qualcuno che non si può permettere quello che tu ti puoi permettere. E l'altro invece, quello che invidia non è che è un altro tipo di sentimento, non è la vergogna ma è la rabbia, il senso di ingiustizia, quindi sono due crisi abbastanza diverse, no? Tutte e due, sia la vergogna che il senso di ingiustizia, hanno anche un aspetto positivo. Hanno anche un aspetto positivo. Per esempio, quando si dice tu c'hai tutte queste cose ma non ti vergogni di fronte a quei poveretti che non ce l'hanno, sei uno c'hai ricco sfondato e non ti vergogni, c'hai una salute di ferro e non ti vergogni, sei in ospedale tutto abbronzato appena e non ti vergogni di fronte ai poveretti. Se quello si vergogna, la sua condizione si riscatta, cioè in qualche modo diventa più etica, diventa più accettabile moralmente, no? D'accordo? Ecco, io su questo non sono d'accordo, lo sai, ma vabbè, rimarrà una questione aperta. Ma non c'è nessun problema sul non essere d'accordo io e te, secondo me possiamo permettercelo di non essere d'accordo. L'aspetto positivo invece dell'invidiare è appunto il positivo che c'è nel senso di ingiustizia, no? Cioè molte invidie per chi ha più di noi o quello che noi vorremmo avere è un senso di giustizia. Ho capito, però scusami, tu puoi avere, per dire, più soldi di me, ok? Mm-hmm. Ma io posso avere, che so, più fortuna, più felicità, più relazioni sociali, mettiamola così. Quindi in realtà uno dovrebbe sempre fare una bilancia del senso di giustizia, cioè il senso di giustizia vale se nella sua complessità. Certo, ma però questo implica, e qui sfioriamo la problematica della relativa alla domanda come si supera l'invidia. Come si supera, sì, infatti volevo arrivarci. Certo, questo sfocia su un altro problema, cioè perché sia vero, quello che dici tu è verissimo, tutti gli invidiati hanno qualcosa da invidiare ad altri, esatto. Perché ognuno, certo, e quindi alla fine aspetta, diventa una sorta di pasta. Aspetta, però questo significa perché si arrivi a questo è necessario andare oltre se stessi, cioè perché se no quello che capita è che tu guardi l'altro in base a te, consideri l'altro in base a te, il che vuol dire che tu dell'altro vedi solo quello che hai in più o quello che hai in meno. Esatto, esattamente. Questo è il punto, non vedi tutto dell'altro, È per questo che, come dicevamo, il problema del confronto con l'altro, la modalità del confronto con l'altro e delle conseguenze, l'emulazione, eccetera, sono aspetti anche negativi. Perché tu, in qualche modo, ti confronti con ciò che è qualcosa che emerge nell'altro. Cioè, perché tu capisca in cosa l'altro è invidiabile mentre ti sta invidiando, è necessario che tu vada oltre te, cioè che ti metta nei panni dell'altro, che lo conosca, che ne conosca la sua vita, che la conosca a fondo l'altro e che ti faccia a fondo conoscere dell'altro. Mentre invece l'invidia spesso è basata sulla superficialità dello sguardo, cioè sul fatto che emerge nell'altro quello che tu non hai o quello che hai, per cui è solo sulla base di quello che emerge che tu giudichi l'altro e hai invidia oppure ti senti invidiato. Cioè questo è un punto importantissimo, perché appunto non ci sarebbe invidia in una cultura in cui le persone non si giudicassero sulla base di quello che appare. Esattamente, ed era proprio qui che ti volevo portare. Ti dirò che questo secondo me sarebbe l'insegnamento fondamentale a partire da bambini. Certo, certo, sarebbe quello l'insegnamento fondamentale, quello di insegnare ai bambini ad andare oltre le apparenze. Guardare un po' il complesso delle cose e non solo la singolarità. Certo, oltre le apparenze e oltre il bene o il male che ti fa a te. Quello, tu incontri un altro, quell'altro c'ha qualcosa che tu non hai e a te ti fa male, e allora tu lo giudichi in base a questo, ma potrebbe esserci in quell'altro qualcosa che ti fa bene, ma finché tu non sei andato oltre te, non ti sei messo nei panni dell'altro, non hai superato le apparenze, non puoi farlo. Esatto, e quindi io adesso direi che potremmo andare in musica. E cosa poi rientrare voi per due? I saluti, sì, assolutamente. Ricordo che oggi, mercoledì 30 aprile, l'UNESCO la dichiara giornata internazionale del jazz, quindi una data importante per una musica importante. A tale proposito chiediamo a Pharoah Sanders, grande sax tenore, e lo stesso Leon Thomas alla voce, l'aiuto per far uscire un po' di sole con questo Sun Song. A fra poco con Oltre la Crisi, Francesca Clementoni, Francesco Campione e William Piana in regia e in questo caso anche selezionatore musicale per i saluti. A fra poco. Precious energy. fortunato e da invidiare chi fa il ponte per il 1° maggio, anche allora a questo, a questo punto. Non manchiamo però di augurare ascoltatrici, ascoltatori, lavoratrici e lavoratori ovviamente un buonissimo 1° maggio, un 1° maggio che sia motivo anche di aggregazione e di comunicazione soprattutto, oltre che di relax e di divertimento. Francesca, a te la parola per queste ultime battute e grazie innanzitutto per la partecipazione. Anche a me che sono sì. Al festival più bello del mondo, dai. Ti invidiamo moltissimo, dai, in effetti. Spento. Dimmi. Non ti stai comportando molto come. Io vorrei vivere partecipando ai festival. Anch'io, guarda, concordo pienamente. Allora, adesso mi godo il TGLF. Adesso vediamo se ti devo invidiare anch'io. Com'è la situazione meteorologica a Torino? No, terribile, piove di rotto. Ok, perfetto, la mia invidia sta calando vertiginosamente. Invidia noi che abbiamo il sole. Un pochettino, e mica pensare, sai, un pochettino, no, qua fa capolino. È freddissimo e piove a catinelle, come da consuetudine inaugurazione festival, quindi festival bagnato, festival fortunato. Che assolutamente ve lo auguriamo. In bocca al lupo, chiaramente. Allora, cara Francesca, noi non diamo appuntamento a mercoledì prossimo, che è all'interno del palinsesto dedicato alla settimana della creatività indipendente, ma a quello successivo, dopo tornerà tutto esattamente come di consueto. Esatto, dopo ci saremo tutti mercoledì fino alla fine dei nostri giorni. Certo, dalle 13 fino alle 14. Alla fine dei vostri giorni. Hai capito? Alla faccia delle invidiateci. Io invidio tantissimo in questo momento Andrea, che deve essere in vacanza, perché è la prima volta che non scrive. Ah, ecco, magari non sono in vacanza. Deve essere in vacanza. Allora, buone vacanze ad Andrea. Buone vacanze ad Andrea, sto scherzando, ci mancherebbe. L'appuntamento è tra 15 giorni con Oltre la Crisi. Il buon weekend lungo per chi lo fa o per chi non lo fa. Un buon 1° maggio di tutto cuore da William Piana, Francesco Clementoni, Francesco Campione, e a risentirci con Oltre la Crisi a questo punto. Ciao a tutti, grazie. Ciao Francesca. A tutti. Ciao. E anche a voi, ciao. Ciao. Power from the sun, one and only one, shining from above and singing loud. La crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.